Questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'Italia è un paese che umilia i suoi giovani, dice il Censis nel rapporto annuale. Il capitale umano c'è, ma non viene usato. Aumenta il risparmio delle famiglie, che però non spendono. Mafia capitale, iniziano le confessioni, parla la segretaria di Buzzi, racconta delle mazzette e sembra allontanarsi intanto l'ipotesi di scioglimento del comune. Vittime su un gommone in arrivo in Italia, 17 migranti muoiono di freddo nel tentativo di raggiungere il nostro paese, in 76 sono stati salvati. Si aggravano le condizioni del medico di emergency ammalato di Ebola, non respira autonomamente, è sedato e in terapia intensiva. Maxi truffa a San Marino, si sono finti massoni in grado di orientare processi e influenzare la politica e hanno spillato 10 milioni di euro ad un industriale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti come sempre 349-238-6666 per i vostri sms, effettogiorno@radio24.it per scriverci via mail oppure la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura dunque il rapporto del Censis e il riassunto con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. È dunque un paese che spreca le sue risorse, immobile, stanco, ripiegato su se stesso, un quadro davvero poco lusinghiero, quello dipinto dal Censis, che come ogni anno sappiamo accende un faro sulla nostra società, una società che sente sulle spalle tutti questi anni di crisi e quest'anno ancor più dell'anno scorso. C'è l'idea che il peggio della crisi sia passato, così dichiara il 47% degli italiani, ma ciò non accresce il senso di fiducia, anzi il 60% ritiene che a chiunque possa capitare di finire in povertà. È un virus che può contagiare chiunque, scrive il Centro Studi, di cui la tendenza delle famiglie a tenere il patrimonio liquido, risparmi, cash da utilizzare per ogni evenienza, la voglia di sentirsi con le spalle coperte. Si spende poco perché c'è un'incertezza di fondo e anche le imprese non investono, gli investimenti infatti sono al minimo dal dopoguerra ed è un paese poco vitale. Gli immigrati imprenditori sono gli unici che continuano invece a mostrare segni di vitalità. Nei 7 anni di crisi le loro imprese sono aumentate di quasi il 32% ed è anche un paese dove crescono le disuguaglianze, l'individualismo. L'Italia del bado solo a me stesso, scrive il Censis, che parla di profonda crisi della cultura sistemica e che quest'anno ha coniato una definizione sintetica, come fa ogni anno, il paese delle sette giare, cioè tanti mondi chiusi in se stessi che non dialogano tra loro e dove la politica ha perso già da tempo la sua funzione di promotore dell'interesse collettivo. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. Alessandra Schepisi che tra l'altro ha realizzato un'intervista con Giuseppe De Rita, il presidente del Censis, che sentiremo più avanti. Intanto noi veniamo alla cronaca con gli aggiornamenti dell'indagine su Roma e facciamo il punto. Dovrebbero concludersi in giornata gli interrogatori di garanzia delle 29 persone finite in carcere nell'inchiesta sulla mafia della capitale. Davanti al GIP comparirà anche Giovanni De Carlo, arrestato ieri dopo essere rientrato dall'estero. Saranno sentiti invece la prossima settimana gli 8 per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. Negli interrogatori di ieri sono arrivate delle prime importanti ammissioni, quelle della segretaria di Salvatore Buzzi, il braccio destro di Massimo Carminati. Nadia Cerrito ha ammesso di essere stata proprio lei a preparare le buste con i contanti che finivano in Campidoglio a politici e funzionari collusi. Nella sua abitazione è stata trovata la contabilità dell'organizzazione e un libro nero nel quale venivano segnate le mazzette mai superiori ai 15.000 euro e accanto le iniziali di chi le percepiva, decine di persone. In queste ore gli inquirenti stanno valutando anche le posizioni di alcuni uomini delle forze dell'ordine che avrebbero avvisato Carminati dell'inchiesta in corso e del suo imminente arresto, che proprio per questo motivo, temendo una sua fuga, è stato anticipato di 2 giorni rispetto al blitz scattato poi nei confronti degli altri membri dell'organizzazione criminale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo il quadro dal lato soprattutto dei soldi, ma c'è un'altra questione, quella più puramente criminale, che riguarda anche le armi di Carminati. Di questo ci parla oggi Daniele Biacchessi. Sono le armi il filo nero che lega il passato al presente di Massimo Carminati. Sul finire degli anni 70 il capo della nuova mafia romana era affiliato ad una batteria della banda della Magliana, quella dell'Eur. Nel gruppo criminale il suo ruolo era duplice. Da una parte garantiva il collegamento con l'area dell'eversione di destra, Inar, dall'altra era l'uomo che conosceva meglio l'utilizzo di armi ed esplosivi. Tra le molte vicende in cui Carminati viene coinvolto c'è l'omicidio del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorino Corelli. Vicino agli ambienti del sisma, i servizi segreti militari del tempo. Nell'inchiesta i giudici scrivono che le munizioni utilizzate per uccidere Pecorelli provengono da quel ristretto lotto di cartucce al quale appartengono anche i proiettili sequestrati presso il Ministero della Sanità a Roma e nella disponibilità tra gli altri proprio di Massimo Carminati. Per quel delitto viene assolto insieme ad Andreotti, Vitalone, La Barbera e Calò. Dallo stesso arsenale, secondo i magistrati, Carminati avrebbe prelevato mitra, valigette e contenuto da utilizzare nel depistaggio sul treno Taranto-Milano per sviare le indagini sulla strage del 2 agosto dell'80 a Bologna. Anche in questo processo Carminati viene assolto. Il filo delle armi giunge ad oggi, alle ultime inchieste. Nella lunghissima ordinanza cautelare del giudice delle indagini preliminari, Flavia Costantini, più volte Carminati e gli altri suoi sodali vengono citati. Ad esempio Massimo Carminati e Riccardo Brugia detengono numerose armi acquisite illegalmente presso le rispettive abitazioni. Nelle intercettazioni parlano di almeno 2 Makarov calibro 9, 4 silenziatori, 2 MP5, le micidiali pistole mitragliatrici prodotte dalla tedesca Heckler & Koch, numerosi giubbotti antiproiettili, mitragliatori Uzi. Poi Carminati descrive a Brugia la metodologia con cui il suo abituale fornitore, certo Fabio, riesce a rendere illegale il commercio delle armi attraverso un giro di false fatture prodotte nei dintorni di Cortina. Infine i due descrivono il sistema per nascondere nelle autovetture pistole, mitragliatori e denaro per eludere possibili controlli da parte delle forze dell'ordine. Queste armi del gruppo non sono state ancora trovate. Avranno sparato? E soprattutto contro chi? Così il nostro Daniele Biacchessi. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi degli affari che questo sodalizio criminale è sospettato di aver fatto in tema di immigrazione, in tema di gestione dei campi Rom, ma ci sarebbe anche la questione dell'emergenza abitativa. Ebbene, oggi un centinaio di militanti dei movimenti per la casa ha occupato questa mattina la sede del PD Lazio a Roma, nel quartiere della Garbatella. Basta profitti sulla nostra pelle, questo è il loro slogan, e ancora creano emergenza per accumulare profitti. Si sono dati appuntamento anche per un corteo il 13 dicembre a Roma. E di qui veniamo a tutta la questione politica, a tutto il lato politico della questione, con l'ipotesi di scioglimento del Comune di Roma che sembrano, almeno per il momento, allontanarsi. Interviene su questi temi anche il Presidente del Senato Grasso, lo stesso Ministro dell'Interno Alfano. Elisabetta Fiorito, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno, non uso mezzi termini, il Presidente del Senato Pietro Grasso. Quello che è successo a Roma è mafia, dice la seconda carica dello Stato. Ormai il fine di far profitto ad ogni costo ha superato qualsiasi rito tradizionale di iniziazione della mafia. Ci sono tutti i presupposti, spiega Grasso, per l'aggregazione mafiosa. Anche se il Presidente del Senato non crede alla possibilità di scioglimento del Comune di Roma, come chiesto, ricordiamo, dal Movimento 5 Stelle, il Comune di Roma per Grasso è assolutamente al di fuori di queste tematiche, soltanto alcuni sono coinvolti. Per sciogliere un comune ci vuole ben altro, anche se è proprio questa l'ipotesi al vaglio del prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, che al momento non l'ha esclusa, e sull'ipotesi commissariamento frena anche il ministro dell'interno Angelino Alfano. È un procedimento complesso e bisogna andarci con i piedi di piombo, non si annuncia un commissariamento anche perché il sindaco Marino non è coinvolto da queste vicende. Roma è una città sana, non è marcia. L'attitudine del governo, spiega poi Alfano, non è quella di punire una città ma di aiutare le forze dell'ordine e la magistratura a far sì che si puniscano i colpevoli. Ieri il sindaco Ignazio Marina ha incontrato il neocommissario romano del PD Matteo Orfinio, il prefetto Pecorario e il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. Ricordiamo però che Pecoraro chiederà le carte a Pignatore per verificare l'ipotesi di commissariamento. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e adesso passiamo alla cronaca. Parleremo delle condizioni cliniche del medico di emergency affetto da Ebola che sono peggiorate. Parleremo della tragedia nel canale di Sicilia, la nuova tragedia con 17 vittime, ma prima di tutto ci sono aggiornamenti sulla vicenda dell'assassinio del piccolo ucciso del bambino ucciso nel Ragusano. E c'è in diretta con noi Livia Zancaner. Livia, eccoci. Sì, buongiorno Simone, arrivati tutta, come dicevi tu, una notizia dell'ultima ora, degli ultimi minuti. Le fascette di plastica che la mamma di Loris ha consegnato lunedì scorso alle maestre, pensando che si trattasse di materiale scolastico, almeno secondo quanto avrebbe riferito lei, sarebbero compatibili con la stessa fascetta utilizzata per strangolare il bambino. Per avere un riscontro definitivo ci vorrà del tempo. Il problema è quello, cioè, che non torna, è che secondo quanto raccontato dalla preside oggi e dalle maestre, quelle fascette in realtà a scuola non sarebbero mai state usate. Ricostruendo un attimo la storia, le maestre hanno raccontato che il giorno in cui sono andate dalla madre per fare le condoglianze per la scomparsa del piccolo, quindi lunedì scorso, lei avrebbe restituito loro un mazzo di fascette dicendo sono quelle che servivano per la lezione di scienze. Le maestre hanno poi consegnato questo materiale alla polizia. Appunto, come dicevo prima, la preside oggi ha smentito che quelle fascette fossero veramente state utilizzate a scuola, quindi i misteri sono tanti, continuano ad aumentare. Gli inquirenti hanno acquisito il GPS dell'auto della madre Veronica per capire cosa ha fatto appunto Veronica quella mattina di sabato 29 novembre, quindi ci vorrà del tempo. Comunque le indagini ogni giorno stanno andando avanti e danno degli elementi nuovi. Per ora comunque è tutto. Grazie Livia Zancaner per questi aggiornamenti. Si diceva delle condizioni del medico di emergency affetto da Ebola, sono stabili da questa notte ma sono peggiorate. Sono stazionarie ma sempre gravi le condizioni del medico italiano di emergency colpito dal virus Ebola in Sierra Leone, ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma dallo scorso 25 novembre. Da ieri sera il paziente è peggiorato ed è in terapia intensiva e durante la notte è stato necessario il ricorso all'assistenza respiratoria meccanica. Ieri il bollettino medico numero 10 aveva definito impegnativo il quadro clinico generale. Peraltro è ancora troppo presto per valutare l'efficacia delle terapie sperimentali utilizzate per il trattamento. Finora al paziente zero italiano è stato somministrato un farmaco antivirale, il plasma di pazienti convalescenti, ovvero guariti dall'Ebola, e due farmaci sperimentali, uno dei quali agisce sulla risposta del sistema immunitario. Tutti i trattamenti per i quali è stata richiesta l'autorizzazione all'Agenzia Italiana del Farmaco. Per il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, l'Ebola può avere un andamento altalenante e i suoi tempi di evoluzione possono variare da paziente a paziente. Al momento, su 22 operatori rimpatriati in Occidente, 11 sono guariti, 5 sono morti e gli altri sono ancora in trattamento. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla nuova tragedia nel canale di Sicilia. Sono morti per il freddo, la sete, la fame. Erano migranti che cercavano di raggiungere le coste italiane, partiti alcuni giorni fa dalla Libia a bordo di un gommone. È avvenuto nella notte, a 40 miglia dalla Libia, a 100 miglia da Lampedusa. La scoperta è stata fatta dalla Marina Militare e dalla Capitaneria di Porto, alle quali è arrivata una richiesta di soccorso. Due motovedette e un rimorchiatore hanno raggiunto il gommone, sul quale oltre alle vittime si trovavano 76 persone. Un migrante invece era in grave condizione ed è stato portato con l'elicottero al primo soccorso di Lampedusa. In altre due operazioni, sempre nel canale di Sicilia, sempre stanotte, sono state salvate 202 persone. Stamattina il ministro dell'Interno Angelino Alfano al Consiglio europeo ha incontrato il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per quando terminerà l'operazione di soccorso in mare, Mare Nostrum. Mancano solo 26 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero ora, mentre un altro nero viene ucciso a Phoenix da un poliziotto, l'America discute sulle parole del sindaco di New York, Bill de Blasio. Troppi casi in troppo poco tempo, l'ultimo a Phoenix mercoledì. Roma in Brisbane, un altro afroamericano disarmato, ucciso da un poliziotto. Secondo la ricostruzione del distretto, l'agente stava effettuando un controllo antidroga all'esterno di un supermercato, quando ha visto l'uomo mettere le mani in tasca. Si è saputo dopo che Brisbane stava solo prendendo delle pillole. Durante il confronto Brisbane ha messo più volte la mano in tasca, si legge in un comunicato della polizia. L'agente ha creduto che l'uomo avesse una pistola e quando non è stato più in grado di mantenere la mano del sospetto e temendo che avesse un'arma in tasca, ha sparato. I fatti di Phoenix si riversano su una comunità, quella afroamericana, duramente provata. In strada a manifestare sono scesi tanti americani, senza distinzione. Hanno invaso New York per la seconda notte consecutiva. Posizione difficile per il sindaco de Blasio, che ha annunciato una vasta riforma della polizia newyorkese, ma ha anche ammesso di aver parlato per anni al figlio Dante, mulatto, dei pericoli che poteva trovare ad affrontare. Lo abbiamo dovuto letteralmente addestrare, ha detto De Blasio, su come usare particolare attenzione in qualunque incontro con i poliziotti, che sono qui per proteggerlo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora dall'estero con una notizia appena arrivata e riguarda un combattente europeo con l'ISIS appena tornato dalla Siria in Germania, 20 anni, tedesco. Un giudice lo ha processato e lo ha condannato a 3 anni e 9 mesi di carcere proprio a causa della sua affiliazione all'ISIS. È il primo caso in Germania di questo genere. Cambiamo decisamente argomento, poi torneremo all'estero, torneremo a parlare di ISIS con il sottosegretario agli esteri. Toccheremo il tema della Libia, che come sapete ci è molto caro. Parliamo di calcio. Il weekend inizia questa sera alle 20.45 con l'anticipo Fiorentina-Juve. Al Franchi si annuncia il tutto esaurito per quella che è da sempre la partita più sentita per i tifosi viola. Il peccato originale che ha diviso per sempre Zebra e Giglio ha una data: 16 maggio 1982, pomeriggio di domenica. La Fiorentina del Conte Pontello e la Juventus di Trapattoni sono pari in classifica all'ultima giornata. I viola giocano in casa di un Cagliari cui serve un punto per la salvezza. La Juventus sul prato del Catanzaro dei Miracoli, settimo in classifica, e vince 1-0 con rigore, che c'era, trasformato dall'irlandese Liam Brady. La Fiorentina fa 0-0 in un uragano di polemiche per un gol annullato a Ciccio Graziani, scudetto a Torino. Qualcuno ancora oggi racconta che fu Berzot il grande burattinaio. C'era il Mondiale di Spagna da preparare e il CT non avrebbe visto di buon occhio la coda di uno spareggio. Fate un po' voi. Fatto sta che da lì, passando attraverso Zeffirelli e Baggio, Conte e Batistuta, Fiorentina e Juventus non si sono più prese. Rivalità ai confini dell'odio sportivo, specie da parte viola. Ecco perché per Firenze questo è uno dei giorni più speciali dell'anno. E pazienza se casca di venerdì. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'Italia è un paese che umilia i suoi giovani, dice il Censis nel rapporto annuale. Il capitale umano c'è, ma non viene usato. E pochi istanti fa il ministro della pubblica amministrazione Madia ha firmato la circolare sui divieti per incarichi a pensionati della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che quindi non potrà più dare incarichi a chi prima lavorava con lei, adesso è pensionato. In questo modo, dice Madia, si libera il lavoro per i più giovani. Mafia Capitale, iniziano le confessioni, parla la segretaria di Buzzi, racconta delle mazzette mentre sembra allontanarsi l'ipotesi di scioglimento del comune. Vittime su un gommone in arrivo in Italia, 17 migranti sono morti dal freddo e per la fame nel tentativo di raggiungere il nostro paese. Si sono aggravate le condizioni del medico di emergency ammalato di Ebola, non respira autonomamente, è sedato e in terapia intensiva. E torniamo sulle vicende dell'inchiesta romana. Saluto Antonio D'Alessandro, presidente del consorzio di cooperative sociali Parsec Consortium. Buongiorno D'Alessandro e benvenuto. Buongiorno. Lei in un'intervista, se non erro, al redattore sociale un paio di giorni fa denunciava c'è stato un momento nel quale la nostra cooperativa che opera in vari settori da quel che ho capito, sia appunto nella gestione dei centri per rifugiati tanto quanto in quella dei campi nomadi, nel supporto dei campi nomadi, ha smesso di lavorare e questo ha coinciso con l'inizio dell'amministrazione Alemanno. È così? E noi no, veramente il nostro lavoro è sull'ambito del verde, quindi sulla manutenzione del verde. Però noi abbiamo avuto dal 2009 al 2013 un crollo degli appalti dell'80%. In favore della 29 giugno, che è questa cooperativa sotto inchiesta in sostanza. In favore di varie strutture, non solo della 29 giugno. Un crollo del fatturato, a cosa lo imputa questo? A quello che sta emergendo dalle inchieste? Guardi, noi di che cosa c'era dietro non sapevamo nulla e non immaginavamo una cosa del genere, che è devastante per tutti quanti quelli che operano nella cooperazione sociale. Però c'era qualcosa di strano, perché improvvisamente cooperative nuove venivano beneficiate di decine e decine di migliaia di euro di appalti, o si venivano avvantaggiate strutture che prima non esistevano dal punto di vista operativo. Quindi qualcosa di non chiaro c'era sicuramente. Immaginavamo. Senta, Alessandro, lei ha fatto esplicito riferimento all'amministrazione Alemanno e però sembra piuttosto evidente che il sistema di potere fosse piuttosto trasversale da questo punto di vista. Ne avete avuto qualche sentore? Perché poi la gente che lavora con le amministrazioni pubbliche di solito non so, qualcosa lo percepisce, magari non ha in mano le prove, hai solamente degli indizi, però insomma qualcosa sotto mano ce l'hai, prego. No, sinceramente no, perché quando noi abbiamo capito questo tipo di situazione abbiamo chiesto qual era il motivo e ci è stato detto che non eravamo vicini alla nuova amministrazione. Quindi, vi è stato proprio detto sì, non siete vicini alla nuova amministrazione e quindi certo, non lavorate. Esattamente. E questo non è successo solo a noi, è successo anche nel settore delle persone dipendenti, è successa la stessa cosa che è successo sui nomadi o sui rifugiati, quindi strutture nuove, sconosciute, che prendevano poi appalti che prima non meritavano, non sapevano gestire. In alcuni casi è come dare a chi ha un euro patentato fargli guidare una Ferrari. Un'ultima domanda ad Alessandro, e poi su queste vicende sicuramente ci torneremo, ed è una domanda un po' più generale. Quanto pesa in tutto questo il sistema, ogni tanto ne parliamo, dell'affidamento diretto? Cioè si proclama un'emergenza, per così dire, e si procede invece che per gara pubblica per affidamento diretto. L'affidamento diretto naturalmente consente all'amministratore o al burocrate che in questo caso riceve o avrebbe ricevuto la mazzetta di affidare direttamente un lavoro. Pesa questo o ha poco a che fare, perché poi le gare magari invece si possono ritagliare specificatamente per quello che si vuol far vincere? Ma io distinguerei un attimo. Allora, sulle emergenze c'è una vecchia tradizione, purtroppo basta ricordare il G8 della Maddalena, quindi dove centinaia di migliaia di euro, milioni di euro sono stati sprecati, sono stati utilizzati tutte quante la modalità dell'urgenza. Gli affidamenti diretti alle cooperative sociali invece servono a salvaguardare le persone che non avrebbero mercato nel mondo del lavoro. Tra l'altro questa vicenda ha colpito profondamente. Però uno può fare una gara tra cooperative? Può fare una gara tra cooperative, ma è prevista dalla norma ed è una gara pubblica. Quindi su questo non c'è il problema degli affidamenti diretti, non esiste, c'è una soglia comunitaria che non si può superare. Quindi qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di un sistema criminale. Mentre vanno salvaguardati gli affidamenti alle cooperative sociali che realmente operano a favore di persone in difficoltà e che non avrebbero possibilità di lavorare. E quindi perderebbero anche la dignità, oltre alla parte economica, che questa inchiesta fa perdere anche la dignità alle persone che noi tentiamo di reinserire nella società. Aggiungiamo a tutto questo, nel salutarla, Antonio D'Alessandro, presidente del Consorzio di Cooperative Sociali Parse e Consortium, ricordiamo naturalmente che nella cooperativa 29 giugno c'era una testa che evidentemente che è finita sotto inchiesta, che è Salvatore Buzzi, e però appunto ci lavora tanta brava gente recuperata per bene e che continua a fare il suo mestiere. Mi scusi se interrompo, sì, ma sono tutti vittime di questa situazione e la stanno pagando pesantemente, tant'è vero che noi ci costituiremo parte civile al processo proprio per difendere persone che non si possono difendere. Grazie Antonio D'Alessandro, presidente delle cooperative sociali Parsec Consortium. Abbiamo parlato in apertura del rapporto annuale del Censis, che racconta appunto i giovani umiliati, un paese che umilia i giovani, un capitale umano che c'è ma non viene usato. Alessandra Schepisi ha intervistato il presidente Giuseppe De Rita. È un'Italia che ha un grande capitale inagito. Noi siamo rimasti molto sorpresi del fatto che le famiglie oggi abbiano un risparmio molto alto e mettono soldi in banca, mettono i soldi nelle polizze vita, mettono soldi nei fondi di investimento e si tengono tanti soldi cash senza metterli in queste cose qua. Il che significa non è che ci siano tanti soldi, ma c'è una strategia delle famiglie di sicurezza, di prudenza, di paura del futuro, che è molto diversa dall'individualismo tradizionale. La stessa cosa, cioè un capitale inagito lo troviamo pure nelle imprese. Le imprese che andavano male sono già state messe nel dimenticatoio, ma le imprese che ci sono oggi hanno aumentato il patrimonio, non significa che soldi ce ne sono, ma il problema non è avere solo soldi, il problema delle imprese è di avere una più complessa visione del futuro, una strategia. Quindi oggi come oggi noi abbiamo una forza dell'Italia in quanto tale che si rifugia nelle singole molecole, ma queste molecole stanno creando una complessità difficile da governare, ma una complessità non banale. Di 8 milioni, parlate di 8 milioni di un capitale umano che non viene utilizzato, chi sono? Beh, sono tutti i disoccupati, tutti i cassi integrati, tutti coloro che sono sottomansionati, buona parte per esempio dei laureati oggi trovano lavoro sotto il livello accademico, è tutta gente che non viene utilizzata per proprio, in proprio conto, nella propria qualità di capitale umano. È a rischio la coesione sociale? Non è a rischio, meglio che lo dica francamente, se no sembra che cerco di evitare, no? Perché la società italiana ha dei meccanismi di assestamento. Per esempio c'è coesione sui territori, nei singoli paesi o paesini. Io ritengo che la coesione in qualche modo purtroppo è diventata una parola troppo facile, è addirittura diventata una parola europea, quindi ha perso ogni valore sociologico o sociopolitico. Però per quello che vale non c'è pericolo di coesione. Coesione, territori, imprese, ruolo degli imprenditori, c'è una storia che ci ha richiamato tutto questo nei giorni scorsi, quella dell'imprenditore vicentino che così era stato anticipato, aveva deciso di lasciare l'azienda in eredità ai dipendenti, pare che non sia proprio così. Perde i contorni della favola la vicenda della Dioma, l'azienda di stampi in materiale plastico che il fondatore, l'imprenditore vicentino Leonardo Martini, morto pochi giorni fa senza eredi diretti, aveva deciso di lasciare ai dipendenti, almeno secondo quanto comunicato loro alla compagna e agli amici più stretti. La lettura delle volontà testamentarie, invece, ha rivelato un'altra verità. A ereditare il pacchetto azionario è il braccio destro di Martini, Cristina De Rosso, entrata in azienda 30 anni fa come segretaria e diventata nel tempo responsabile amministrativo e procuratrice della società. A quanto pare la sorpresa è stata grande anche per lei. Gli altri dipendenti assicurano sono ben felici anche così. L'importante, sottolineano, è proseguire con il team di lavoro voluto dal fondatore. La realtà, insomma, si è rivelata un po' meno spettacolare. Peccato. Anche noi, come tanti altri, autori di migliaia di condivisioni sui social, ci avevamo voluto credere. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 8 milioni di persone non utilizzate, dice il Census, tra disoccupati, inattivi e persone che appunto non cercano lavoro. L'Italia è un paese che umilia i suoi giovani. Mafia Capitale, iniziano le confessioni, parla la segretaria di Buzzi e racconta delle mazzette. 17 migranti sono morti di freddo e fame nel tentativo di raggiungere il nostro paese su un gommone nel canale di Sicilia. In 76 sono stati salvati. Si aggravano le condizioni del medico di emergency, ammalato di Ebola. La borsa. Una marcia in più alle tue difese? Su con Sustenium Immuno Energy. E Menarini, in farmacia. Vi presenta Borse in diretta. E se la giornata di ieri si era caratterizzata forse per qualche aspettativa delusa in merito alla BCE, la giornata si era chiusa con un calo del 2,77% per il FTSE MIB, quindi Milano particolarmente negativa, quella di oggi è quella, la giornata evidentemente dei recuperi. FTSE MIB appunto che guadagna il 2,20% in questo momento, FTSE All Share il 2,04%, tra l'altro in accelerazione. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ancora Draghi naturalmente. Sì, oggi riprendono fiato le borse dopo lo scivolone di ieri, innescato appunto dalle parole del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Il rinvio al 2015 di nuovi interventi a sostegno dell'economia aveva scatenato le vendite, le borse puntavano, come anticipavi, a qualche informazione in più, almeno per quanto riguarda il calendario delle nuove misure di stimolo attese per quanto riguarda l'economia dell'Eurozona. In un quadro complessivamente positivo, dove fanno bene naturalmente anche le banche, che recuperano, fa bene Buzzi Unicen che guadagna il 5,08%, ancora giù Saipem meno 3,7%. Sì, Saipem perde ancora terreno, questo dopo l'ufficializzazione della sospensione dei lavori per il gasdotto South Stream, un'opera che per la società italiana vale un appalto da 2 miliardi. Grazie a Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo ad aprire una pagina di esteri partendo dalle Filippine, dove si attende un tifone che potrebbe essere devastante. È stato di massima allerta nelle aree centrali delle Filippine, che stanno per essere colpite da un tifone che potrebbe risultare altrettanto devastante di quello che poco più di un anno fa si abbatté nelle stesse zone, causando oltre 7.300 morti e distruggendo 1 milione di abitazioni. Sono già decine di migliaia gli sfollati che cercano rifugio lontano dai villaggi costieri più esposti, ma in totale sono circa 10 milioni le persone nelle regioni più a rischio di Bicol e Visayas orientali. Secondo gli esperti, la tempesta tropicale, chiamata Rubio Hagupit, dovrebbe arrivare domani mattina nella provincia di Samar orientale, per poi colpire quasi tutto il centro dell'arcipelago da est a ovest, con raffiche fino a 250 km orari. Il presidente Benigno Aquino ha cercato di coordinare la predisposizione di misure di emergenza e fatto del suo meglio per rassicurare in parte la popolazione, sostenendo che questo tifone potrebbe essere meno pericoloso di quello del novembre dell'anno scorso, a causa del quale 25.000 persone vivono ancora in rifugi di fortuna. Intanto, una riunione dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico, prevista per settimana prossima nella provincia di Albay, è stata spostata a Manila. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. In tutto questo è anche corretto discutere di corruzione, delle inchieste su Roma e quant'altro. Stiamo perdendo di vista qualcosa. Il fatto che c'è un paese a poche decine di chilometri dalle nostre coste che è nel caos più completo. E parliamo naturalmente della Libia. Libia dove, secondo il generale David Rodriguez, comandante delle forze americane per l'Africa, lo Stato Islamico ha stabilito dei campi di addestramento. Siamo nell'est del paese e a quanto riferisce sono 200 gli jihadisti che vengono addestrati in quei campi. Il tutto in una situazione particolarmente complicata, che più volte da questi microfoni vi abbiamo raccontato, nella quale ci sono sostanzialmente due capitali in questo momento in Libia, una riconosciuta internazionalmente, una con un governo riconosciuto internazionalmente, una con un governo un po' meno, che è quella di Tripoli, dove tra l'altro c'è ancora il nostro ambasciatore, l'unica rappresentanza diplomatica rimasta aperta insieme a quella della Bulgaria. Saluto Mario Giro, sottosegretario agli esteri. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno a voi. Vorrei capire un attimo che cosa si sta ipotizzando, perché insomma parliamo di un paese che è ad un passo dalle nostre coste, come si diceva, nel caos più completo, dove si è intervenuti ad un certo punto, la comunità internazionale è intervenuta ritenendo che Gheddafi non dovesse stare più al suo posto e lasciando però il paese di fatto in balia di se stesso. Certamente questa situazione ci preoccupa moltissimo, come hanno detto sia il Premier Renzi che il Ministro degli Esteri Gentiloni, è la nostra priorità delle priorità, perché è la frontiera dell'Italia. Noi non ci consideriamo solo un paese limitrofo, ma proprio un paese frontaliero, anzi la frontiera si sposta ancora più a sud, perché è proprio nel sud della Libia, dal sud della Libia, che si sono in questi ultimi anni di situazione molto incerta e confusa, riversati verso il Sahel fenomeni terroristici e destabilizzanti molto forti. E questo è un altro elemento interessante. Si diceva di questi campi di jihadisti che secondo gli americani vengono creati in queste ore nell'est del paese, ci si riferisce in particolare evidentemente all'area di Derna, città che a quanto pare dagli stessi jihadisti è stata conquistata. Vorrei capire da lei che rischio a questo punto ci può essere, poi parleremo anche di un eventuale intervento internazionale del quale ha parlato anche il ministro Gentiloni, che rischio c'è che con l'emigrazione che parte prevalentemente dalle coste libiche, qualcuno di costoro approdi in terra europea. Ma è un rischio rischio direi per adesso abbastanza calcolato, nel senso che il vero rischio della presenza jihadista lo abbiamo fin dall'inizio della crisi in Libia e lo abbiamo verso sud. Nel senso che i jihadisti sono presenti già da prima della crisi libica nel deserto e si sono molto rafforzati, tant'è che, come abbiamo visto, c'è stato bisogno di un intervento francese perché il Mali non diventasse un paese nelle mani degli jihadisti. Quindi non è una novità ed è tenuto sotto controllo ovviamente dalle nostre forze di sicurezza, dai nostri servizi, perché è una situazione sempre molto, molto complicata. Devo anche dire che il passaggio attraverso la Libia dei profughi che vengono dall'Africa e da altre aree di crisi è sempre più difficile, vista la situazione. Però c'era già in Libia un certo numero di profughi, perché diciamo il viaggio, tra virgolette, per esempio dal Corno d'Africa verso Lampedusa è un viaggio che può durare 2 anni. Quindi noi abbiamo anche delle situazioni di sacche di persone che si sono stabilite in Libia in attesa di poter espatriare. Le ultime due domande, sottosegretario, e abbastanza rapidamente. La prima, che possibilità ci sono che parta un intervento di peacekeeping, naturalmente sotto l'egida dell'ONU, perché è escluso che ci si vada da soli, evidentemente. E la seconda, se le condizioni di sicurezza del nostro personale che si trova a Tripoli, appunto, unica ambasciata insieme, mi pare a quella bulgara o a quella ungherese, non ricordo esattamente. No, Hanno chiuso tutte. Rimane solo la nostra? Rimane solamente la nostra, sono garantite le condizioni di sicurezza del nostro ambasciatore e della nostra ambasciata? Ogni 2 giorni il Ministro fa una riunione su questo specifico tema, nel senso che guardiamo con grande attenzione a quello che succede a Tripoli e alla sicurezza dei nostri, che viene garantita al massimo livello. Per quanto riguarda la prima domanda, direi che non siamo ancora arrivati a questo punto. Naturalmente un qualunque intervento deve essere solo sotto cappello ONU, perché se no non ha nessun senso, visto certo quello che è successo già in passato. L'Italia ha come politica in Libia la politica di una sola Libia e dialogo assoluto. Noi non solo non immaginiamo che ci possa essere una soluzione militare alla crisi libica, ma nemmeno la vogliamo. A Bruxelles 2 giorni fa l'Italia ha messo insieme gli 8 paesi che contano sulla situazione, USA, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, più l'ONU e naturalmente l'alto rappresentante Mogherini, in cui si sostiene molto l'operazione che sta tentando il rappresentante ONU Bernardino León, e si fanno soprattutto, questa è la novità, forti pressioni alle parti, perché la riunione prevista tra qualche giorno tra le varie parti libiche, che non sono solo 2, si possa svolgere, possa iniziare un vero dialogo, e si è fatto anche un monito contro le operazioni militari, in particolare le operazioni degli aerei militari che bombardano popolazione civile, gli airstrikes, che in questo momento non fanno che peggiorare la situazione. Allora, grazie a Mario Giro, sottosegretario agli esteri, per essere stato con noi, per averci dato un quadro della situazione. Prometto agli ascoltatori che queste vicende naturalmente continueremo a seguirle. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Are you gonna kick me out? I'm not kicking you out. You're kicking yourself out. What? Look, we got some brothers up on the wall. You know, Malcolm X, Nelson Mandela. You know, Michael Jordan. Tomorrow. Come on, you get him out, right? I'm trying to get him out. È una scena del film di Spike Lee, Do the Right Thing, un film del 1989. Perché ve lo faccio sentire? Beh, perché è simbolico di quello che sta capitando oggi negli Stati Uniti dal punto di vista razziale. Avete sentito un dialogo di quartiere, Sal, che è un pizzaiolo italo-americano che litiga con un afro-americano, con un nero, è un quartiere misto, è un quartiere dove ci sono tensioni razziali, a un certo punto scoppiano dei disordini, arriva la polizia cosa fa? prende Radio Raheem, che è uno degli afroamericani, uno dei neri più forti, pronti a combattere in questa piccola lotta di quartiere, e gli fa la presa a cravatta, questo chuck hold, questa presa che strangola, in questo caso gliela fa addirittura col manganello, e il povero Radio Raheem muore strangolato, esattamente come è morto strangolato il 17 luglio scorso Eric Garner. Perché vi ho riproposto la scena di questo film? Perché sono passati 25 anni da allora. Spike Lee la metteva nel film come dire: beh sì, questa è una delle cose che può succedere, che succede, ma appartiene più al passato che al futuro. In realtà 25 anni dopo succede ancora. Good afternoon, I'm Dana Tyler. We're following breaking news in Staten Island. As we reported earlier this hour, multiple sources telling CBS2 a Staten Island grand jury has decided not to indict an NYPD officer in the death of a man on Staten Island. Ecco, avete sentito, uno dei tanti newscaster americani, non c'è stato giornale americano, non c'è stata rete televisiva, università, consiglio comunale, commissione parlamentare che non abbia dibattuto ieri la decisione del grand jury di Staten Island, ma soprattutto il grande problema degli eccessi dell'uso della forza da parte della polizia nei confronti degli afroamericani, nei confronti dei neri. Le reazioni di ieri, vi dicevo, sono state molto emotive, radicate, profonde, dell'America che non sopporta più queste ingiustizie e costanti abusi di potere contro i neri. Per tutti ha parlato a un certo punto ieri il presidente americano. Sentiamo di nuovo Barack Obama. When it comes, as we've seen unfortunately in recent days, to our criminal justice system. Too many Americans feel deep unfairness when it comes to the gap between our professed ideals and how laws are applied on a day-to-day basis. L'America è frustrata, dice Obama, per il nostro sistema che non sa più gestire la giustizia criminale. Troppi americani sentono profonda ingiustizia quando si osserva il gap fra i nostri ideali professati e come poi le leggi sono applicate nel giorno per giorno. Ecco, un messaggio molto duro questo del presidente, un intervento molto diretto che mette allo stesso tempo sotto accusa il modus operandi della polizia, quello dei grand jury e quello di un sistema che continua a discriminare fra neri e bianchi. Obama ha anche chiamato il sindaco di New York, Bill de Blasio, che sta interpretando, devo dire, un ruolo molto importante e molto difficile, molto rischioso, sta prendendo un rischio perché ha deciso di prendere una posizione molto dura che gli ha portato contro le reazioni di alcuni dei sindacati di polizia che lui dovrebbe guidare. Sentiamo de Blasio. This tragedy is raising a lot of tough questions, but there is tremendous resolve here in this city to answer those questions, to get it right, to move forward. There's tremendous resolve here at the NYPD to find a way to draw closer to the community, to do things in a new way. The relationship between police and community has to change. The way we go about policing has to change. Ecco, il sindaco ha criticato quello che ha fatto la polizia, ha detto che questi eccessi di violenza devono terminare. Vi ricordo che la campagna elettorale di de Blasio era proprio per cercare di moderare gli eccessi di violenza della polizia, ebbene, proprio sotto il suo mandato continuano ad esserci, ma ha annunciato un programma di riforma. Innanzitutto formazione, i poliziotti di New York dovranno prendere, come dire, ripetizione su come comportarsi in casi tipo quelli che abbiamo visto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Dopodiché bisogna ricucire, è venuto il momento, ha detto di Blasio, di ristabilire un rapporto di fiducia tra forze dell'ordine e cittadini. Poi il rapporto tra polizia e comunità deve cambiare, dunque non soltanto fra gli individui, e deve anche cambiare il modo in cui noi individui ci approcciamo alla polizia, non sempre con sospetto ma con collaborazione, rispondendo ai loro ordini. Infine, la gente ha bisogno di sapere che la vita vale tanto quanto quella dei bianchi. Infine, quasi in risposta a Barack Obama, un intervento di Eric Holder, il ministro per la giustizia. Sentiamolo. Today I can announce that the Department of Justice and the City of Cleveland have come together to set in motion a process that will remedy these issues in a comprehensive and in a court-enforceable manner. Ecco, Holder annuncia dei provvedimenti contro il Dipartimento della Polizia di Cleveland. Ve lo ricordo, qualche giorno fa, la settimana scorsa, la polizia di Cleveland ha sparato e ucciso Tamir Rice, un bambino, un ragazzino di 12 anni che giocava con una pistola giocattolo, con una pistola finta. I poliziotti lo hanno visto, gli hanno dato 2 secondi per gettarla per terra, il ragazzino non ha capito, gli hanno sparato, l'hanno ucciso. Questo succedeva a Cleveland, ma pochi giorni prima a New York, a Kai Gourlay, un nero 28 anni, è stato ucciso di nuovo per errore per le scale del suo palazzo da polizia che era in pattuglia e aveva le pistole in mano. Ma scherziamo, pistole in mano mentre stai facendo una pattuglia in un palazzo? Ieri abbiamo saputo anche di un nuovo assassino di cui non sapevamo niente. Romain Brisbane è stato ucciso anche lui, questa volta in una città del West, era disarmato, non si è saputo nulla, si sono avuti i dettagli soltanto oggi. Ecco, è questa concentrazione di abusi, di eccesso di uso della forza che sta preoccupando, e per questo Holder è intervenuto a partire dal Dipartimento della Polizia di Cleveland. Il rapporto copre il periodo fra il 2010 e il 2013, analizza in tutto 600 casi sospetti in 3 anni, ha annunciato che a Cleveland, in Ohio, arriverà un funzionario indipendente dal Dipartimento della Giustizia per vigilare sul Dipartimento della Polizia. Ci sarà una collaborazione, ha detto Holder, con Frank Jackson, che è il sindaco di Cleveland. Fra le riforme, quella di chiedere di dotare di un videoregistratore i poliziotti, di modo che i fatti siano sempre più chiari, soprattutto per i grand jury, di modo che i giurati possano vedere come sono andate davvero le cose, invece di sentire solo testimonianze che in molti casi, l'ultimo, quello di Staten Island, sono stati parziali e ingiuste. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo aperto il programma con il film di Spike Lee, Do the Right Thing, dunque a 25 anni di distanza l'America non ne può più, l'America è frustrata, come ha detto Barack Obama, e dunque mi sembra giusto proporvi il tema di quel film, la canzone centrale degli Steel Pools, Can't Stand It. No work for you for miles around. The family's on the verge of breaking down. The rent is due, the landlord making threats. The pressure building up to make you sweat. I know you can't stand it. You can't stand it. I know you can't stand it. You can't stand it. I know you can't stand it. You can't stand it. I know you can't stand it. You can't stand it. You can't stand the heat. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna lunedì alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24 e poi alle 17 con Focus Economia.